fermata, non si vedeva niente. Nei pressi di una curva mi scontro con l'oggetto e noto appena sceso il lampeggiante sopra il tetto. Mi chiedo se per loro sia normale il parcheggio al centro del manto stradale. Ma loro sostengono, sei tu il deficiente, mi multano e mi levano la patente. Urbano vaffanculo, urbano vaffanculo, te prendi la paletta, raccatta questa merda. Urbano vaffanculo, urbano vaffanculo, urbano vaffanculo, urbano vaffanculo. La Vespa elaborata, il vento nei capelli, a far la scampagnata con il mio amico Gino. Ehi, ciao, sono Gino! Nei pressi di un incrocio trovo il solito urbano, pretende di fermarmi col palmo della mano. Ma Gino è molto grosso, ehi, ehi, ehi. La Vespa senza un freno travolgo sfascio urbano, non fossi neanche un treno. La Vespa tutta rotta, la faccia tu me fatta, la multa nel cassetto, la Vespa sequestrata. Urbano vaffanculo, urbano vaffanculo, dai prendi la paletta, raccatta questa merda. Urbano vaffanculo, urbano vaffanculo, urbano vaffanculo, urbano vaffanculo. Stavo andando a pagare la mia bella multa in questura e mi rendo conto che i parcheggi nel raggio di 4 km sono tutti riservati agli urbano di turno. Trovo posto, metto il disco orario e vado. Oh, arrivo in questura dopo un quarto d'ora di trotto, faccio una fila della Madonna esagerata e salto il mio debito con la giustizia. Ritorno alla macchina e lì davanti, come un avvoltoio su una carogna ancora calda, c'è il solito urbano. Guarda l'orologio, fa un ghigno da iena e tira fuori un libricino dalla tasca. No, metti via quella cosa, urbano! Ti prego, dai, non scrivere urbano! No! Urbano vaffanculo, urbano vaffanculo, dai prendi la paletta, raccatta questa merda. Urbano vaffanculo, urbano vaffanculo, urbano vaffanculo, urbano vaffanculo. Ma perché mi guardi così? I tuoi occhi di cerbiatto celano sentimenti ambigui. Ma perché sei così? Ben retribuito, no, non sfogare le tue frustrazioni su di me. Eri anche in divieto di sosta. Allora vaffanculo, urbano vaffanculo, dai prendi la paletta, raccatta questa merda. Urbano vaffanculo, urbano vaffanculo, urbano vaffanculo, urbano vaffanculo, urbano vaffanculo.